Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi è il 24 ottobre 2017, io sto per partire per Torino, stasera all'Eroa con i Decibel, ribalteremo il locale. Ma non è di questo che vi voglio parlare di quello che è successo 100 anni fa, il 24 ottobre del 1917. Prendeva il via quel giorno quella che rappresenta la più grande sconfitta nella storia dell'esercito italiano, la battaglia di Caporetto. E ancora oggi il termine Caporetto viene usato come sinonimo di sconfitta disastrosa, è diventato un modo di dire, un luogo comune quando si vuole sottolineare che qualcosa è andato veramente male sotto tutti i punti di vista e su tutti i fronti, si dice è stata una Caporetto. Questa terribile battaglia è stata combattuta dal nostro regio esercito contro le truppe austro-ungariche e tedesche. È stata il culmine della Prima Guerra Mondiale. Ha rappresentato molto di più che una semplice sconfitta bellica. È stato un evento che ha sconvolto una nazione, ha fatto cadere un governo, ha fatto vacillare la fede degli italiani nella possibile vittoria. Per giorni e giorni dopo Caporetto tutti hanno creduto che la guerra fosse compromessa, fosse perduta, fosse finita a nostro sfavore. C'era un clima di tragedia in Italia, però non è stato così, perché le sorti del conflitto, lo sapete, sono state capovolte. Gli italiani si sono ripresi, hanno resistito sul Piave e alla fine le nazioni alleate hanno vinto sugli imperi centrali. L'Italia ne è uscita vittoriosa, anche se poi è stata umiliata dai trattati di pace che sono stati fatti dopo. Questa è un'altra storia. Comunque Caporetto rimane una delle pagine più tristi della nostra storia, una cicatrice incancellabile per il popolo italiano. Non tanto perché si è trattato di una sconfitta terribile, ma di battaglie perse ce ne sono state tante nelle guerre. Il motivo è che apparentemente i nostri soldati a Caporetto ebbero un comportamento considerato vigliacco, cioè scapparono, i prigionieri erano più dei morti e questo per la mentalità del tempo era assolutamente inaccettabile. Poi negli ultimi anni è stata fatta un'analisi più approfondita dei fatti storici, dei documenti trovati, degli ordini militari che sono usciti dal segreto, ed è stato possibile dare una lettura molto diversa di questa vicenda, una lettura che riscatta il comportamento dei nostri soldati. E tra quelli che hanno aiutato a fare chiarezza con la loro testimonianza diretta c'è un uomo che noi oggi avremo come nostro narratore privilegiato, un uomo che all'epoca dei fatti era molto giovane, aveva poco più di 20 anni, era presente a Caporetto e aveva tenuto un diario minuzioso. Poi si è salvato fortunatamente, non solo per lui ma anche per noi, perché è diventato uno dei più grandi scrittori italiani. Sto parlando di Carlo Emilio Gadda. Molti di voi conosceranno Gadda per essere l'autore di libri bellissimi, intensi, come Il giallo, quel pasticciaccio brutto di via Merulana, da cui il grande Germi ha poi tratto un film. Spero conoscerete il romanzo La cognizione del dolore, i suoi saggi di letteratura e di filosofia. Pensate che Gadda era un ingegnere elettrotecnico, aveva lavorato per molti anni come ingegnere sia in Italia che all'estero, ma aveva sempre mantenuto viva la sua passione per la scrittura, nata proprio durante la guerra, perché lui lì riportava quotidianamente quello che gli succedeva, le sue sensazioni, i suoi sentimenti. Insomma, a un certo punto la guerra gli ha fatto capire che la professione di scrittore gli piaceva di più ed era più adatta alle sue caratteristiche di quella di ingegnere. E i suoi diari dal fronte, molto minuziosi, scritti tra il 24 agosto del 1915 e il 31 dicembre 1919, sono stati raccolti in un libro, Giornale di guerra e di prigionia, che lui pubblicò parzialmente nel 1955. Poi Gadda muore nel 1973 e dopo la sua morte viene pubblicata la parte relativa a Caporetto e alla sua prigionia, e qui emergono fatti nuovi, una denuncia forte, amara, dell'incompetenza con cui è stata condotta la guerra da parte dei vertici del comando, del degrado della vita dei soldati e dei prigionieri. L'orrore della guerra, il disprezzo per le gerarchie diventeranno i temi fondamentali dell'opera letteraria di Carlo Emilio Gadda. Non capita quasi mai di avere un narratore del livello di Carlo Emilio Gadda. Noi abbiamo una fortuna oggi, quella di poterci avvalere delle sue testimonianze dirette per celebrare il centenario di Caporetto. E questo ci dà la possibilità di rendere un dovuto omaggio ai tanti morti, ai feriti di questa tremenda battaglia, 40.000 italiani, ma anche di rendere omaggio ai prigionieri che vigliacchi non furono. E fu un evento, Caporetto, a seguito del quale ci sono state incredibili ripercussioni di carattere militare ma anche politico. Ha creato un numero drammatico di profughi, di gente scappata in cerca di salvezza dalle loro terre che erano state invase dagli austriaci. Intanto cerchiamo di capire qual è la situazione storica nella quale ci troviamo. La prima guerra mondiale, la grande guerra, scoppia nel luglio del 14, lo ricordate, a seguito dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo-Este a Sarajevo, ucciso dal rivoluzionario serbo Gavrilo Princip. E allora l'impero austro-ungarico dichiara guerra al regno di Serbia e si forma un gioco perverso e terribile di alleanze. Quindi con gli austriaci si schiera la Germania, poi arriva l'impero ottomano, mentre insomma i cosiddetti imperi centrali, mentre dall'altra parte, a fianco della Serbia, arrivano l'impero russo, la Francia, il Regno Unito e più avanti anche gli Stati Uniti e addirittura i giapponesi, che questa volta erano, diciamo, a fianco degli Stati Uniti. E poi nel 1915 arriva anche l'Italia. Sappiamo anche che la guerra si concluderà l'11 novembre del 1918 con la vittoria degli alleati, e questo porterà alla fine dei maggiori imperi esistenti al mondo, che si estingueranno generando diversi stati, ridisegnando la geografia politica dell'Europa. Lo ricordo ancora una volta, l'Italia, pur avendo vinto la guerra, venne trattata malissimo dai grandi europei. Insomma, i trattati di pace umiliarono l'Italia, che aveva vinto la guerra. Ma torniamo all'entrata in guerra dell'Italia, che avviene ufficialmente nel maggio del 1915. Ricordate la canzone, i primi fanti, il 24 maggio l'esercito marciava, l'esercito italiano sotto il comando del generale Luigi Cadorna, segnatevi questo nome, occupano il territorio di frontiera con l'Austria-Ungheria lungo l'Isonzo. E Gadda, a quei tempi non ha ancora 22 anni perché è nato a Milano il 14 novembre del 1893, ma è un fervente interventista e si offre immediatamente volontario. Quindi Gadda, come primo smistamento, viene mandato in Val Camonica, a Edolo. Qui non siamo ancora sul fronte, siamo in Lombardia, in uno dei tanti centri di reclutamento, di addestramento dei soldati che poi dovranno partire per la Valle dell'Isonzo, al confine tra Italia e Austria. E qui lo scrittore segue la sua inclinazione naturale, che già si fa sentire, comincia a redigere il suo diario, quel diario quotidiano che rappresenterà il grande colpo d'ala di Gadda, che ci permette oggi di conoscere la realtà di quegli avvenimenti tragici. Va detto che inizialmente Gadda è contento, è stato lui a volersi arruolare, e lo abbiamo detto, un interventista convinto, vuole difendere la sua patria dagli invasori che stanno premendo sul fronte a Gorizia. E quindi il periodo che lui passa a Edolo è intenso, i venti di guerra sono lontani da lì, lui ancora non ha idea di cosa significhi essere un soldato al fronte, che cosa sia una trincea, cosa sia una battaglia. Le note che prendo a redigere sono stese in buona copia, come viene viene, con quei mezzi lessigrafici e grammaticali e stilistici che mi avanzano dopo la sveglia antelucana, le istruzioni, le marce. Scrivo sul tavolino incomodo della mia stanza. Sto abbastanza bene, ma il motivo egoistico, sentimentale, che momentaneamente mi domina è un desiderio di raccoglimento e di durezza alpinistica, di forze fresche, di compagnia coi miei pochi amici, di nebbia e di bosco. Tanto più mi sono lontani questi carriaggi, questi muli e la mensa chiassosa degli ufficiali. Penso raramente alla guerra, non per indifferenza, ma per timore di soffrir troppo nella preoccupazione. Eh sì, è meglio essere occupati tutto il giorno con l'addestramento, con le altre incombenze di servizio, piuttosto che pensare a quello che verrà, quello che sta per accadere. E invece quello che verrà arriva subito. Una circolare del comando invita gli ufficiali della milizia territoriale a frequentare il corso per diventare sottotenenti di complemento. Questo significa essere mandati subito al fronte, probabilmente proprio lì sull'Isonzo. In pratica i volontari hanno la possibilità di rimanere nelle retrovie come complementi di supporto, ma se invece scelgono di essere addestrati opportunamente possono diventare effettivi in breve tempo. Carlo Emilio Gadda naturalmente accetta e scrive così nel suo diario: mia madre e mia sorella naturalmente sono poco liete della mia decisione di passare nel ruolo di ufficiale di complemento, poiché questo implica un pericolo maggiore, ma io devo e voglio combattere. Lascio che i porci, i ladri e i cani, gli impostori sgavazzino e faccio il mio dovere. Quanti giovani appartenenti a tutte le classi sociali, ma soprattutto al popolo, si sono messi al sicuro nelle armi e nelle mansioni della paura, della vigliaccheria. Quanti con cavilli, con sofismi, con grandi teorie, giustificano la loro poco eroica condotta. Chiedo a molti se credano che una persona assalita debba difendersi e loro mi rispondono di sì. Quando poi chiedo se Francia e Russia abbiano diritto di lottare contro la Germania, mi rispondono sì, devono lottare. E allora? Solo l'Italia, che io credo minacciata nella sua stessa esistenza dal dilagare del germanesimo strapotente, deve lasciarsi fregare? E insomma, avete sentito con quale veemenza giovanile Gadda dichiari la sua volontà di voler combattere per difendere la libertà della sua patria dall'invasore austro-tedesco, con quale disprezzo tratti quelli che invece sono più riottosi, insomma hanno paura, non vogliono andare subito al fronte. E quindi lui diventa sottotenente di complemento, lascia le retrovie e si dirige nelle zone di guerra. Ma intanto qual è la situazione in cui si trova l'Italia? Le offensive scatenate dal comandante supremo Luigi Cadorna sull'Isonzo non portano nessun cambiamento sostanziale del fronte e portano solo la morte di moltissimi soldati di entrambi gli schieramenti. È una guerra di trincea terribile, dolorosissima. Nel 1916 gli austriaci ritirano parte dei loro uomini dal fronte orientale, che ritengono solido e tranquillo, e li impegnano nella cosiddetta Strafexpedition, una spedizione punitiva contro gli italiani. E per molti mesi la guerra non porta a nulla di sostanziale, viene persa Gorizia, poi viene ripresa, passa ancora parecchio tempo e arriviamo all'agosto del 1917, si arriva alla undicesima battaglia dell'Isonzo, undicesima, ancora una volta però i risultati sono minimi in confronto alle vite umane che sono state perse per conseguire questi risultati. E arriviamo ai fatti che ci riguardano da vicino, i fatti che prendono l'avvio nell'ottobre del 1917, che sfoceranno nella battaglia di Caporetto. Intanto cerchiamo di capire dove ci troviamo, e la geografia è molto importante per capire la storia. Caporetto è una piccola cittadina sull'Isonzo, oggi si trova in Slovenia, vicino al confine con l'Italia, e si chiama Kobarid. Già è un po' triste dirvi questo. Ora, se voi guardate una cartina geografica di queste zone, noterete che ci sono tre fiumi, l'Isonzo, il Tagliamento e il Piave, scorrono abbastanza paralleli dalle Alpi fino al mare. Questi tre fiumi, queste tre barriere d'acqua hanno rappresentato altrettanti possibili fronti, le loro rive sono state teatro di battaglie sanguinose. E poi l'Isonzo è praticamente un confine naturale per molti tratti tra l'Italia e l'impero austro-ungarico, quindi è il primo territorio dove arrivano da subito le truppe del Regio Esercito. E la posizione di Caporetto è particolarmente strategica perché è all'incrocio tra il corso dell'Isonzo e la valle che porta verso la pianura friulana. La catena montuosa del Kolovrat, che oggi è il confine tra l'Italia e la Slovenia, che si eleva sopra Caporetto, è uno dei punti di partenza delle truppe italiane verso i territori dell'impero austro-ungarico durante tutto il periodo del conflitto mondiale. Insomma, Caporetto è un po' il fulcro di queste battaglie. Adesso che abbiamo inquadrato l'aspetto geografico, bisogna fare un'analisi delle truppe in campo e delle loro caratteristiche, che sono molto, ma molto diverse tra di loro. Non è la differenza numerica che conta, anche se gli austro-tedeschi sono di più, siamo a 350.000 uomini, mentre gli italiani sono più o meno 250.000. Ma sono proprio le tecniche di guerra a essere differenti e decisamente a favore degli austro-tedeschi. Gli abili generali tedeschi istituirono e addestrarono le cosiddette Sturmpatrouillen, squadre d'assalto formate da 11 uomini, 7 fucilieri, 2 portamunizioni e 2 addetti alle mitragliatrici, che dovevano muoversi con missioni di contrattacco. erano formazioni molto agili, che agivano direttamente al comando dei sottufficiali. I vertici militari tedeschi poi avevano capito che la vita di trincea era fisicamente e psicologicamente distruttiva per il soldato. Così si adoperarono per ridurre al minimo la permanenza in prima linea delle truppe. Un battaglione ci restava mediamente 2 giorni su 12. La situazione delle truppe italiane è diametralmente opposta. Un elemento caratteristico del regio esercito è la sua eccessiva burocratizzazione. E in Italia la burocratizzazione è sempre stata una nostra caratteristica. Gli ordini dei tedeschi passano solo attraverso i comandi di divisione e di battaglione, e gli italiani devono passare per il corpo d'armata, per la divisione, per la brigata, per il reggimento e infine per il battaglione. Quindi 7 passaggi per dare un ordine, sembra le storie che ascoltiamo oggi, ma lì non c'era in ballo un documento da fare più in fretta, lì c'erano in ballo vite umane. Insomma, l'Italia ha come sempre un'organizzazione pachidermica e lentissima. E poi i tedeschi hanno ideato la difesa elastica, che consiste in 3 linee di difesa: la prima occupata da poche forze, la seconda ben fortificata e presidiata, e la terza destinata alle riserve, con continui cambi degli uomini, con, come dire, una rotazione. I soldati italiani sono tutti ammassati in trincea, in prima linea, rimangono lì tutti insieme a patire per il freddo, la pioggia incessante, la fame in mezzo ai topi, e soprattutto a patire la continua tensione. Queste sono delle premesse indispensabili per poter giudicare l'operato dell'esercito italiano, che al momento dell'attacco di Caporetto si trova in quella situazione terribile da 2 anni. Il falco e il gabbiano. Esattamente 100 anni fa, il 24 ottobre del 1917, prendeva il via la tragica battaglia di Caporetto. Caporetto è considerata la più grave disfatta nella storia dell'esercito italiano. C'erano contrapposte le nostre truppe a quelle austro-ungariche e tedesche. È il culmine della Prima Guerra Mondiale, che si sta combattendo nelle trincee, nei corpo a corpo cruenti, in mezzo al fango, in mezzo alla disperazione, al disagio. Anche il grande scrittore milanese Carlo Emilio Gadda è lì, è a Caporetto perché si è arruolato volontario, e i suoi diari che lui ha scritto tra l'agosto del 1915 e il dicembre del 19 raccontano il contesto storico e umano di quell'esperienza terribile, rappresentano un documento unico, uno straordinario resoconto di quella che è stata una delle pagine più significative della nostra storia, e parlano anche del travaglio di questo ragazzo che si è arruolato spontaneamente per amore di patria, per entusiasmo giovanile, e piano piano si trova di fronte agli orrori della guerra. La grande offensiva austro-tedesca dell'ottobre del 17, sfociata nella battaglia di Caporetto, viene preceduta da molte settimane di accurata pianificazione da parte degli stati maggiori austro-ungarici, anche da complesse procedure di rafforzamento per riorganizzare le forze impiegate. Da entrambi i lati, quello italiano e quello austriaco, le perdite sono state ingenti. Tra il maggio e il settembre l'esercito italiano ha avuto 400.000 tra morti, feriti e dispersi. Anche loro sono fortemente indeboliti, hanno perso più o meno 240.000 soldati. I nomi che saranno coinvolti negli scontri che stanno per avere luogo a Caporetto sono nomi altisonanti: c'è il generale capo di Stato Maggiore Luigi Cadorna, c'è il tenente generale Luigi Capello, il tenente generale Alberto Cavacciocchi e il comandante d'armata Pietro Badoglio. L'offensiva austro-tedesca è comandata dal generale Otto von Below, dal capo di Stato Maggiore Konrad Kraft von Delmesingen, mentre l'avanzata sul Monte Kolovrat è affidata al futuro feldmaresciallo Erwin Rommel, uno che ha dimostrato di essere pratico. In quel momento Rommel però era ancora un semplice tenente. Le truppe austro-tedesche fanno partire un bombardamento serrato in tutto il settore dell'Alto Isonzo e colpiscono gli italiani con dei lanci di granate e di fosgene. Il fosgene è un gas letale, che uccide all'istante. Le postazioni italiane vengono sfondate, aggirate, le prime linee si trovano a essere isolate dall'alto comando, rimangono senza ordini e coordinamento. Pensate, Badoglio, a capo dell'artiglieria che avrebbe potuto in qualche modo rallentare l'avanzata nemica, ha dato disposizione di non aprire il fuoco fino al suo ordine personale. E poi le linee telefoniche vengono interrotte dai bombardamenti e lui non può dare ordine. Pensate che livello di organizzazione c'era lì. Insomma, i cannoni italiani finiscono nelle mani dei nemici senza aver sparato un solo colpo. Nel primo giorno di battaglia gli italiani perdono 40.000 uomini tra morti e feriti. Mattino del 24 ottobre. Fredda nebbia e nevischio. Il bombardamento continua. Viene operato verso le batterie 6 e 8 e poi verso la vetta del Crasi. Non capisco lo scopo di battere questa posizione dove non c'è nessuno, ma penso che sia per rompere le comunicazioni telefoniche. Poi un episodio doloroso colpisce la nostra compagnia. L'armaiolo De Candido e il soldato Archetti Francesco vengono correndo da me mentre sto parlando col Cola sul collegamento da stabilire con la seconda sezione. Dico: «A che c'è da correre, stupidi?» credendo che corrano per ripararsi dal bombardamento. E invece loro sono scossi dalla morte del loro compagno, Zuppini Fedele. Una granata improvvisa è esplosa vicino a loro mentre erano tutti e tre insieme. Entrambi hanno sulla giubba larghe chiazze di sangue e una spruzzata di materia bianca che riconosciamo essere il cervello del loro amico. Beh, qui i racconti diventano tragici, avete sentito? L'orrore di quello che si sta vivendo a Caporetto fa tremare. Sono pagine intrise di dolore, di paura, di smarrimento. Non si hanno notizie degli altri, non ci sono ordini. I collegamenti con il comando sono stati completamente tagliati dal nemico. Si sentono saltare i ponti sull'Isonzo, uno a uno. Ogni volta la speranza di mettersi in salvo al di là del fiume diventa sempre più flebile. I primi ordini arrivano dopo 24 ore dall'attacco, 24 ore. Il comando supremo viene informato che Caporetto è caduta, si decide l'abbandono di tutte le postazioni sulla riva sinistra dell'Isonzo. Gadda con la sua compagnia deve scendere il crinale del Crasi e presto si rende conto che la situazione è veramente disperata. Migliaia di soldati italiani stanno cercando di attraversare il fiume, che ormai è privo di ponti, e i tedeschi li stanno inseguendo su entrambe le rive. In migliaia si arrendono, gettano il fucile e si fanno catturare. Il 27 ottobre il generale Cadorna dà disposizione di riparare dietro il tagliamento, ma la ritirata avviene in una situazione caotica e caratterizzata da diserzioni, da fughe. Insomma, fallisce anche la ritirata. Migliaia di soldati si dirigono senza ordini verso la pianura friulana. Molti le armi le devono gettare e le gettano con sollievo perché sono convinti che la guerra sia finita, pur perduta, ma è finita. Non siamo morti. A loro si uniscono i primi civili friulani che sono costretti a abbandonare le loro case perché ormai sono in territorio austro-germanico. Che fare? Eravamo circondati, noi di qua, i tedeschi di qua e di là e in mezzo l'Isonzo. Una barriera insuperabile. Dove? Come passarlo? Decidemmo di nasconderci per la notte, guastare le armi e cercare di fuggire nell'oscurità. Poi mi accasciai sull'erba come giumento che più non vuol trarre le somme. Le lacrime mi si erano inaridite e un istupidimento brutale mi teneva. Nel fondo dell'anima sentivo l'angoscia della prigionia, oramai inevitabile. Per gli italiani non c'è via di scampo. I tedeschi sono stati abili, la loro manovra di sfondamento delle prime linee e quindi l'isolamento dai comandi delle retrovie non è solo una sapiente azione militare, denota proprio una conoscenza profonda della tattica avversaria. È una tattica assolutamente discutibile. Gli italiani hanno accorpato un po' a caso tutte le forze sul fronte. Insomma, i nostri soldati sono tra due fuochi, non hanno nessuna speranza, la resa è inevitabile. E anche lui, anche Carlo Emilio Gadda con i suoi uomini che ormai sono scesi a Caporetto e si deve arrendere. Tutti si arrendono con grande amarezza. Attraversammo la parte sinistra di Caporetto nel dolce tepore autunnale. Le case qua e là erano già occupate dai tedeschi che vi installavano uffici e alloggi. La truppa nemica era già in avanzata verso Cividale e questa fu per me una nuova pugnalata nel cuore, sebbene sperassi ancora che Cadorna riuscisse a colmare la breccia e a respingerli di nuovo all'Isonzo. All'ingresso del paese vidi muli morti e cadaveri di soldati asfissiati dal gas, molti in atto di estrarre la maschera. Ci arrendemmo. Finiva così la nostra vita da soldati, da bravi soldati. Finivano i sogni più belli, le speranze più generose dell'adolescenza, con la visione della patria straziata, con la nostra vergogna di vinti. Iniziamo il calvario della dura prigionia, della fame, dei maltrattamenti, della miseria e del sudiciume. È molto giovane Carlo Emilio Gada, ha 24 anni, però ha già, sentite, una grande abilità di narratore, l'altezza dei suoi sentimenti è già quella dello scrittore maturo. Il suo racconto trasmette tutto l'orrore su questa terribile tragedia italiana e ce ne dà una visione peraltro molto diversa da quella che verrà fatta passare nei giorni successivi dall'alto comando del Regio Esercito, che con un atteggiamento direi infame attribuirà la colpa della disfatta di Caporetto al comportamento vile dei soldati italiani. Il falco e il gabbiano. Il sottotenente del quinto alpini Carlo Emilio Gadda inizia, come tanti altri, la dura prigionia. E lui e i suoi uomini saranno insieme in molti campi di internamento in Germania, prima a Rastatt vicino a Karlsruhe e poi a Celle nei pressi di Hannover. La prigionia è terribile e è resa ancora più triste dagli eventi successivi al 24 ottobre. La più terribile disfatta dell'esercito italiano di tutti i tempi verrà fatta passare per qualcosa di inaccettabile per i soldati italiani. Eh sì, il comandante supremo del Regio Esercito, il generale Luigi Cadorna, quello al quale hanno intitolato vie, piazze, a Milano c'è piazza Cadorna, pensate un po', e lui cerca di nascondere la verità al paese. Il 26 ottobre aveva emesso un bollettino ottimistico, poi non si poteva nascondersi dietro a un dito. Una volta che la notizia della disfatta era diventata di dominio pubblico, inizia quella che molti storici hanno definito una corsa convulsa a scrollarsi di dosso ogni responsabilità e a mantenere intatti il prestigio e l'onorabilità. Il 28 ottobre viene diramato in tutta Italia un nuovo bollettino firmato da Cadorna. Mentre lui era al caldo e i soldati italiani stavano morendo nelle trincee o venivano deportati, lui trova il tempo e la voglia e la faccia per scaricare tutta la responsabilità sugli altri. È una presa di posizione ignobile, infame, insensata, anche perché un generale non può non accollarsi le azioni del suo esercito. Lo stesso ministero corregge quasi subito il bollettino di Cadorna, parla di violenza dell'attacco, di resistenza deficiente di alcuni reparti, ma la frittata lui l'ha fatta. Il bollettino è stato comunque diramato e il nemico ne approfitta, lancia sui campi di prigionia dei soldati italiani, ma anche nelle zone di battaglia dei manifestini, nei quali viene riportato il testo di Cadorna. Vengono fatti commenti, è fin troppo facili da fare. Lo scopo ovviamente è di debilitare anche psicologicamente gli italiani, si chiama propaganda sovvertitrice. La situazione è pesantissima. Caporetto non è solo una battaglia persa, non è solo una disfatta dell'esercito italiano, si trasforma in un dramma politico che travolge tutta la nazione. Il governo cade e il primo ministro Paolo Boselli, che era apertamente schierato con Cadorna, ne viene destituito. Il 30 ottobre, a una settimana dall'offensiva di Caporetto, il re Vittorio Emanuele III nomina presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando, che forma un nuovo governo. Poi finalmente il generale Cadorna viene sostituito, riceve l'esonero ufficiale l'8 novembre. Al suo posto viene nominato il generale Armando Diaz. E qui parte la storia di un'altra battaglia straordinaria che si combatterà tra il 13 e il 26 novembre e che avrà un esito completamente diverso. Gli italiani mostrano agli austriaci e al mondo di che pasta sono fatti. È uno dei momenti più alti e gloriosi dell'intera vicenda della Prima Guerra Mondiale. Stiamo parlando della Battaglia del Piave. c'è uno strascico lungo e tragico che si porta dietro Caporetto, è quello dei moltissimi soldati italiani che sono caduti prigionieri degli austro-tedeschi. Si parla di circa 370.000 uomini e tra questi c'è anche lui, Carlo Emilio Gaddo. L'abbiamo lasciato insieme alla sua compagnia nelle desolate vie di Caporetto nel momento in cui si sta arrendendo, è costretto a rendersi, e da quel momento inizia per lui una trafila di viaggi dolorosi che lo porteranno prima in un campo di smistamento di lavoro di Rastatt nella Germania occidentale, poi in un campo di internamento per ufficiali di celle nei pressi di Hannover, dove arriva il 29 marzo del 18 e rimarrà fino al gennaio del 19, 10 interminabili mesi. E i diari di questo periodo così lungo e doloroso sono una delle testimonianze più terribili e sofferte che siano state scritte sulla guerra. È un resoconto straziante, intriso di intelligenza, di sensibilità, è un preludio di quella che sarà la produzione letteraria del grande scrittore. Oggi è un triste giorno per me. All'appello mattutino hanno fatto il mio nome tra coloro che devono essere sottoposti ad una seconda visita polmonare. Cercherò di ricordarmi che sono un ufficiale italiano e accetterò la mia sentenza da soldato. Ma una malattia, quale la tubercolosi, toglie all'uomo ogni speranza. Gli annienta la vita. Io ho troppo sofferto per poter avere riserve di energia che mi bastino per vivere senza un'idea centrale sostenitrice. In guerra quest'idea era la patria, il mio onore di soldato. Fuori della guerra era l'ideale della mia opera. Se ora sapessi di essere ammalato, il mio animo strangolato dalle giornate di Caporetto mi verrebbe totalmente meno. Sono giunto ad un punto critico della mia vita di prigioniero, a un'altra tappa della follia umana. Troppo, troppo ho dovuto sopportare, l'ingiusto peso mi vince. Sento le mie forze soccombere. Sento che la vita rifugge dall'anima. Per fortuna per Gadda la diagnosi sarà di una forte bronchite e di uno stato generale di debilitazione, ma non tubercolosi, che allora era mortale. Gadda è prostrato per la denutrizione, per le condizioni estreme di vita, ma si salverà. In uno dei suoi scritti, datato 1958, I viaggi, la morte, Gadda si interroga su quello che può significare il racconto di una guerra, se sia possibile o no trasmettere le sensazioni che si provano al fronte durante una lunga prigionia. Tutti quelli della mia generazione hanno ascoltato altri che dicevano: è tornato dalla guerra e non ha raccontato nulla. Cioè, molte persone tornate dalla guerra, dalla prima o dalla seconda guerra mondiale, non sono state in grado, non hanno voluto raccontare. Gadda è uno scrittore e si prende carico di questo compito non facile, un compito che richiede un lavoro molto profondo, che deve andare al di là del semplice racconto dei fatti. Il dirmi che una scarica di mitra è realtà va bene, certo. Ma io chiedo al romanzo che dietro questi due ettogrammi di piombo ci sia una tensione tragica, una consecuzione operante, un mistero. Forse le ragioni o le irragioni del fatto. Il colpo d'ala di Gadda è proprio questo: riuscire a raccontare gli orrori della guerra e il suo travaglio personale, quello di un ragazzo che è partito con l'entusiasmo di chi voleva fare qualcosa per il suo paese e si è trovato in quel orrore. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcodelgabbiano@radio24.it oppure al nostro sito, o venite a trovarmi, a trovarci nei miei, nei nostri social. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni. Generation.